Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Benvenuti anche a questa nuova puntata di Fumetti a Sinistra, un mondo dentro i balloon, che si interroga quali siano i rapporti tra due grandi intellettuali come Antonio Gramsci e Gianni Rodari. Potrà anche sembrare strano come lo storico leader del Partito Comunista Italiano e l'inventore delle mille filastrocche per bambini possano leggersi a distanza e anche riconoscersi, ma è proprio la grammatica ad essere terreno comune per una battaglia emancipatoria delle classi subalterne. Di tutto ciò se ne è parlato nei tre dialoghi per ricordare il centenario della nascita di Gianni Rodari, promossi dalla Fondazione Gramsci Emilia Romagna, questo in collaborazione con Arci Bologna ed Emilia Romagna Teatro Fondazione. In particolare se ne è parlato nella sezione Il valore politico della lingua all'interno dell'intervento di Giancarlo Schirru, glottologo, docente ordinario alla Facoltà Romana della Sapienza. Dopo uno stacchetto musicale ascoltiamo stralci del suo intervento tenutosi a Bologna il settembre scorso. Pensiero linguistico di Gramsci e l'Italia degli anni 50, quella in cui Rodari comincia ad operare, in particolare l'Italia degli anni 50 del mondo legato alla stampa comunista e alla stampa collaterale al Partito Comunista, che era quella in cui Rodari lavorava in quegli anni. Proprio nel 1950 viene pubblicato il quinto volume dei Quaderni del Carcere, dell'edizione Princeps, quella tematica organizzata da Felice Platone e Palmiro Togliatti. Questo volume ha per titolo Letteratura e vita nazionale, perché in realtà leggendo le note si coglie un grande disegno, una grande riflessione che Gramsci compiva sulla letteratura italiana, in cui i grandi protagonisti sono per lui sicuramente una triade costituita da Dante, Machiavelli e Manzoni, che sono il vero centro di questa serie di note, e messi in relazione con i grandi scrittori della storia letteraria europea, con Goethe, con Cervantes, insomma, questo è il suo riferimento. E aggiunto al quale poi c'è una riflessione sulla mancanza di un carattere popolare della letteratura italiana in Italia, che era un vecchio tema manzoniano, che viene svolto da Gramsci, poi annodato attorno alla formula del nazionale popolare, che poi ha avuto grande fortuna successivamente. Ora, questo volume di annotazioni prese da vari Quaderni del Carcere di Gramsci contiene alla fine una serie di appunti dedicati alla lingua, che costituirono, quando furono pubblicati, una novità molto rilevante, innanzitutto all'interno della riflessione teorica nell'ambito degli autori marxisti, perché costituivano un elemento effettivamente che non rappresentava il canone dell'intellettuale, lo scrittore formatosi intorno alla tradizione del marxismo. Questi appunti sono dedicati alla grammatica, proprio alla grammatica, e non è un termine metaforico, è proprio la grammatica che si insegna a scuola. Possiamo dire anzi che sono dedicate all'insegnamento di grammatica. Ora, questi appunti contengono due grandi novità che arrivarono immediatamente nella cultura italiana degli anni 50. La prima di queste è la rilegittimazione, da una voce assolutamente non ovvia, dell'insegnamento della grammatica. Questo è un fatto importantissimo. Tra l'altro Gramsci aveva degli illustri precedenti, perché anche nella Russia rivoluzionaria si era svolto subito dopo la rivoluzione proprio un dibattito simile, che protagonisti Lenin, Trotsky, i quali avevano sostenuto la necessità per il nuovo Stato di proporre una lingua alta, cioè Pushkin agli operai. Questa era la direttiva, in sostanza, non una lingua popolare. Però Gramsci, come sempre fa, raccoglie queste indicazioni che venivano dal dibattito del comunismo internazionale, calandole profondamente all'interno del dibattito italiano, e quindi prende le distanze da quegli orientamenti di tipo liberale, che pure erano stati molto forti all'inizio del Novecento all'interno della cultura idealista, volti allo difendere lo spontaneismo linguistico dell'infanzia. Dice Gramsci, in realtà l'infanzia vive all'interno di un mondo normativo in cui alcuni gruppi sociali ovviamente hanno a disposizione immense risorse per formarsi una lingua complessa, altre no, restano confinati in ambiti molto limitati, e quindi la soppressione dell'insegnamento della grammatica in realtà consolida la divisione naturale delle classi, quindi difende il valore democratico dell'insegnamento grammaticale. La seconda grande novità è che, secondo Gramsci, la grammatica, però così come era stata proposta nella scuola fino a quel momento, lasciata nelle mani di presunti specialisti delle grammatiche scolastiche, che spesso erano degli scrittori, non si capiva bene chi dovesse esercitare, insomma, il ruolo normativo del legislatore grammaticale. Tra l'altro poi abbiamo saputo successivamente che Gramsci aveva preceduto queste sue annotazioni dalla postillatura. È l'unico caso di un libro che viene postillato qua in modo intensissimo all'interno del lavoro di Gramsci, della grammatica di Panzini, cioè di uno scrittore, che era uno dei libri più fortunati del tempo, sia come grammatica scolastica che come grammatica per gli insegnanti, e veramente la fa a pezzi. Perché per Gramsci l'unica grammatica possibile è la grammatica scientifica, che deve rapportarsi alla grammatica comparativa e alla nascente grammatica descrittiva. Tra l'altro in carcere riesce a informarsi abbastanza bene sul nascente strutturalismo, cioè la grammatica di una lingua non è costruita in una campana di vetro, non vive senza il rapporto con le altre lingue, e quindi apre al problema della connessione fortissima che l'italiano ha con le altre lingue d'Europa, sia geneticamente con quelle romanze, neolatine, sia per i continui prestiti, influssi, interferenze che ci sono state con le altre grandi lingue dell'Europa, quelle germaniche, quelle slave. Tra l'altro nei suoi quaderni si può andare a cercare tutta una serie di esempi in cui lui argomenta questa profonda osmosi della lingua italiana con le lingue dell'Europa, e uno dei termini in cui questo si vede è proprio il suo nazional popolare, che era in realtà l'adattamento di un termine russo, narodni, appunto, che vuol dire sia nazionale sia popolare, e che lui adatta con questa formula, come spesso fa con la terminologia bolscevica, che non assume, insomma, passivamente, ma rielabora sempre in forme adattate al contesto nazionale. Poi si possono cogliere, leggendo questi appunti con il resto dei quaderni, tre altri filoni che accenno soltanto. Innanzitutto il rapporto tra la riflessione linguistica e la grande cultura italiana. Il secondo filone è il rapporto con la politica. C'è una bellissima nota di uno dei quaderni filosofici in cui lui dice espressamente che ogni evento linguistico è un rapporto pedagogico, perché presuppone un venirsi incontro di chi parla e di chi ascolta, e chi parla deve spiegare il suo punto di vista in qualche modo e convincere il suo ascoltatore. Ovviamente questo termine pedagogico va contestualizzato nell'idea bilaterale della pedagogia che Gramsci sviluppa nel carcere, per cui il maestro è sempre allievo del suo allievo e l'allievo è sempre maestro, no? C'è un rapporto in cui i due elempoli della pedagogia si influenzano reciprocamente, ma aggiunge: ogni rapporto politico è un rapporto di questo tipo. In realtà la politica non è altro che l'arte di farsi comprendere dai propri interlocutori, e ha nella pedagogia il suo punto di forza maggiore, la concezione pedagogica della politica, un punto che possiamo dire inattuale, se c'è una concezione che appare un po' lontana dalla politica odierna è proprio la spinta educativa, pedagogica della politica, che invece in Gramsci è fortissima. Terzo filone poi è il rapporto con il marxismo teorico, con la riflessione filosofica in senso ampio, perché Gramsci compie un'operazione che via via negli anni ci è apparsa sempre con maggiore nettezza, di svolta linguistica del marxismo. Può essere paragonato un po' a ciò che fa Wittgenstein per il neoempirismo o che fa Croce nell'ambito dell'idealismo, cioè in pri porta il problema linguistico all'interno della riflessione del filone di studio del materialismo storico. Cosa facesse oltre a studiare? Non l'ho saputo mai, ma avevo capito fin dall'inizio che quello lì andava in cerca di guai. Avevo capito che era un socialista, quelli li riconosco a prima vista, e soprattutto quello lì, io lo sapevo, quello lì avrebbe avuto quello che meritava. Dopo un po' d'anni, e chi ci pensava, l'ho preso con sgomento, che quello lì, quel sardo lì, era finito eletto in Parlamento. Va bene che il Parlamento non conta niente, però non è proprio il posto per certa gente, e soprattutto quello lì, io lo sapevo, quello lì che avrebbe cercato di farla franca. Ieri ho saputo che finalmente si sono decisi a farlo, l'ha messo dentro, avrà 20 anni, abbia risparmiato il tempo di ammazzarlo, perché è malato ed è una cosa vera, non uscirà vivo dalla galera. Io lo sapevo, quello lì, me lo sentivo, quello lì non poteva finire altro che così. Questo è il quinto quaderno di Gramsci, secondo lo studioso Giancarlo Schirru, che continua annodando fili non troppo coperti tra l'intellettuale sardo e Gianni Rodari. Rodari era a quel tempo redattore dell'Unità a Milano, e come i quaderni diventano il manuale fondamentale sia per i redattori della stampa comunista che per i quadri, sono il libro di testo della scuola quadri del Partito Comunista, di fatto, il manuale con cui venivano formati. A me sembra che ci sono soprattutto due spunti tra questi che Rodari abbia preso in particolare. Il primo è la spinta verso la lingua colta. Rodari è uno scrittore coltissimo, controllatissimo. Insomma, non dobbiamo cadere nel tranello che la scrittura dell'infanzia sia una scrittura spontanea, non controllata, perché la sua sintassi è invece molto, molto colta. Gli inserti dialettali si situano all'interno di una tradizione della lingua italiana, di recuperare anche le tradizioni locali, quindi è un'operazione la sua dal punto di vista linguistico molto sapiente, in cui si allontana da filoni della letteratura per l'infanzia che invece hanno usato una lingua popolare, vicina al parlato, spontanea. Ecco, Rodari non è un autore di quello che i linguisti definiscono il baby talk, cioè il modo con cui le mamme parlano ai bambini, con quelle frasi ripetute, con quei modi, tutto abbassato. No. Lui, sono periodi complessi, è una frase lunga, le parole sono molto dosate, e in questo ecco l'altra questione che è la spinta pedagogica rodariana. Qui c'è l'idea di portare i bambini verso risorse linguistiche più elaborate, più complesse, via via. E poi, se posso uscire dallo stretto ambito linguistico, se c'è una caratteristica che a mio parere accomuna queste due figure, è di essersi allontanati massimamente da quella impronta dannunziana, eroica, gladiatoria dello scrittore come vate che individualmente doveva indicare dei nuovi mondi, schiacciando inevitabilmente il suo lettore in una presunta ignoranza, rendendolo piccolo piccolo ogni volta. Questa retorica eroica aveva dominato l'Italia per più di 50 anni. La figura di D'Annunzio era stata ovviamente quella più rappresentativa, ma gran parte degli scrittori dell'Italia degli anni 30 e 40 a questo si ispirano, insomma, per non parlare dell'oratoria pubblica. Sia Gramsci sia Rodari invece hanno un modo dimesso in cui pensano che per cambiare le cose bisogna mettersi insieme e non così indicare in modo mistico una strada, ma invece cercare di capire, di mettere insieme, di formare un sentimento collettivo, una volontà collettiva. Vedo anche Rodari sempre proteso verso questa direzione. Ora, anche in questo centenario abbiamo letto tante volte, è stato tante volte ripetuto, a Rodari non ha il posto che gli spetta all'interno della grande storia della letteratura italiana, non viene ricordato quanto dovrebbe. Insomma, io non so se lui aspirasse veramente a avere un posto nella grande letteratura italiana, sicuramente aspirava a formare una generazione. E ci è riuscito. Bandiera rubia, potarrago dai, e in silenzio a voce su gruppo se pensava cantai. Antoi nostro no se nota ancora, antoi nostro no asa morri mai. In ogni cosa giusta, in ogni e bestia, anche a 200 all'ottai, o difendi su vai. E a eccese incese os andauso, che in se manco cae gestionai, ma una promessa è sita se ho fatta, vedo raia e noia la cantai. somme stemmare. Il testo è un libretto stampato nel 47, nel dopoguerra dunque, che presentava la nascita, la vita e la morte di Antonio Gramsci, quindi un testo dedicato al fondatore del Partito Comunista Italiano, che era costruito su pagine con tavole del pittore Domenico Purificato in classico stile neorealista e sotto una didascalia che ricordava molto quelle vignette pre-Nuvoletta, dove appunto c'era il quadrato e sotto c'era la veloce didascalia. È un testo ricavato da un'intervista di Palmiro Togliatto, ricavato molto liberamente in realtà, ritrovato e messo all'attenzione dall'Istituto Gramsci da Giacomo Frey, che è lettore nonché autore di graphic novel, che noi abbiamo interpellato per sapere di più di che quale figura di Gramsci in qualche modo sortisce da queste tavole. Jacopo Frey, autore di graphic novel, parliamo di queste tavole illustrate su Gramsci del 47. Questo personaggio così importante nella storia della sinistra cambia nel tempo, è lo stesso tipo di raffigurazione oppure guardando queste tavole si capisce che c'è una diversa prospettiva? Allora, naturalmente diciamo che cambia il personaggio Gramsci, diciamo, perché cambia come viene raccontato, nel senso che Gramsci, oltre la sua esperienza storica, diciamo, di dirigente, uno dei fondatori del Partito Comunista d'Italia, nel 21 è diventato noto soprattutto dopo, nel senso negli anni 20 era uno dei dirigenti di un piccolo partito. Dopo la guerra, quando questa pubblicazione viene fatta, diventa il fondatore del Partito Comunista Italiano, guidato in quel momento da Palmiro Togliatti, che ne ha fatto il partito di massa, e prende la figura di Gramsci come immagine attorno alla quale costruisce il suo partito. Per cui abbiamo un Gramsci degli anni 20, che è il Gramsci storico, e il Gramsci che viene raccontato e che soprattutto viene poi messo al centro del dibattito pubblico dalla pubblicazione dei Quaderni dal carcere del 1947 in poi. Il prodotto, che è questo albo illustrato del 1947, presente in poche biblioteche, perché è un prodotto che forse ha circolato poco, è un qualcosa di diverso, cioè un Gramsci che viene presentato al popolo. Quindi diciamo, un Gramsci agiografico in qualche modo, un po' musificato. Sì, diciamo più agiografico, più da santino che mummificato, nel senso che ancora molte delle persone, quelli che sono i comunisti del 47, Gramsci non l'avevano conosciuto. Cioè la generazione che era venuta fuori dalla resistenza, che si stava avvicinando al Partito Comunista nella ricostruzione, Gramsci non l'aveva conosciuto, l'avevano conosciuto i torinesi degli anni 20, gli altri non l'avevano conosciuto, gli viene presentato un santino di fatto. Quindi un Gramsci legato anche molto a una unità d'Italia, al popolo d'Italia in qualche modo. Al popolo d'Italia, al popolo lavoratore dell'Italia, che però ancora non è entrato a far parte di quel patrimonio nazionale, da cui poi Togliatti prova a farlo entrare, tant'è che fa pubblicare i Quaderni dal carcere non dall'edizione del partito, bensì dall'Einaudi. Quindi lì sarebbe entrato poi, dall'anno successivo poi, perché siamo del 48, inizia a entrare nel patrimonio della storia nazionale, annacquandolo, fra virgolette, però questa è una considerazione personale. Ecco, tu lavori nel mondo del graphic novel, se dovessi fare oggi un lavoro su Gramsci, come uscire dal rischio della geografia? Allora, diciamo che io ho avuto delle piccole esperienze, mi frequento molto il fumetto più da lettore, che come al di là delle mie piccole esperienze da autore. Ci sono state delle esperienze di fumetti su Gramsci che hanno reso un Gramsci sostanzialmente diverso. Penso al fumetto fatto da Elettra Stambulis e Gianluca Costantini di Ravenna, Pop, che raccontavano, e una messa in scena di Gramsci, dello spirito di Gramsci. E il fumetto Mi chiamo Nino, un fumetto edito da Feltrinelli qualche anno fa, che raccontava questo piccolo Nino, questo piccolo Antonio Gramsci che si poneva di fronte al mondo con le fattezze di una piccola caricatura, maniere diverse. La vita di Gramsci è stata una vita interessante. La cosa che varrebbe soprattutto la pena raccontare dal mio punto di vista sarebbe l'esperienza carceraria, che è lì che è stato messo alla prova e che in un certo senso ha mostrato anche sia le sue qualità intellettuali che le sue qualità politiche di resistenza. Ecco, un'ultima domanda. In questo momento, che non è particolarmente roso per la sinistra italiana, la sua storia, quanto può interessare una figura come Gramsci? Allora, la figura di Gramsci è una figura che ancora ha molto da dire, pur se collocato nella sua epoca storica. Ricordiamo sempre che all'estero Gramsci viene studiato molto, vengono molti, penso al discorso sui subalterna studies, i studi sui ceti subalterni, sui studi di storia culturale, va molto forte Gramsci, passatemi l'espressione. Allo stesso tempo è un personaggio che va collocato nella sua epoca storica. Allo stesso modo è stato uno dei pensatori più qualificati del movimento operaio italiano e del movimento operaio internazionale, che ha fatto delle riflessioni